Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Il mio primo secondo è un secondo di mare, dolcemente salato. Così, dal mare non è detto sempre che si abbia il sale, ma spesso si riesce ad abbinare con dei piccoli accorgimenti qualcosa che renda dolce anche la ricetta più salata. Oggi ai Magnifici Destini va in onda la ricetta perfetta. Una ricetta che mescola abilmente due elementi solitamente lontani, quasi agli antipodi, come il dolce e il salato, riuscendo a coniugarli in maniera sopraffina. Va detto subito che la ricetta non è per tutti, ma è riservata a chi ama curiosare nel vasto panorama di opportunità dei gusti e dei sapori. A guidarci attraverso questo insolito esperimento, naturalmente, c'è uno chef. Uno che ha l'obiettivo di amalgamare le due caratteristiche che lo hanno sempre guidato nel suo lavoro, due anime distinte, che solitamente viaggiano separate, ma che nel corso della sua carriera ha provato a mettere insieme. È uno chef in gonnella, un piccolo grande chef tutto grinta ed energia. Irene Grandi. Così come il cibo, anche la musica talvolta si diverte ad attraversare e mescolare generi e sonorità. È una questione di scelte. C'è chi trova un gusto, un groove che gli piace e gli somiglia, e decide che quello sarà il solo e unico faro che indicherà la strada. O chi invece, come Irene Grandi, deve fare i conti con una doppia anima, rock e melodica, o dolce e salato, mettetela come volete, e non si spaventa davanti a questo, ma al contrario si mette al servizio della propria esigenza, cercando il modo migliore per sfruttare entrambi gli elementi, provando e riprovando, fino magari ad arrivare là dove pochi avevano osato spingersi. Pensandomi sul palco come artista, quasi sempre quando faccio un po' così una riflessione su di me, è il fatto che di solito la cosa che colpisce di più è proprio l'energia, la grinta, la botta che arriva quando insomma salgo sul palco, mentre la mia parte, diciamo, un po' più intimista, è un po' più romantica, volendo anche un po' più ricercata, è sempre un po' poverina, messa un po' da una parte quando vado sul palco. Probabilmente Irene Grandi ha sempre saputo di avere due lati così distinti. O forse no. Forse una delle due ha prevalso fin dall'inizio, mentre l'altra ha dovuto lottare, acquisire consapevolezza, emergere lentamente attraverso esperimenti, canzoni. Chi lo sa? Quello che è certo è che dentro di lei queste due indoli ci sono sempre state, e il trovarsi a doverle equilibrare è un fatto con cui prima o poi ha dovuto fare i conti. Avevo sempre da dire la mia anche quando non sapevo le risposte, ero tremenda, però mi piaceva vivere l'ambiente scolastico tutto sommato, avevo fatto amicizia con tante persone, partecipavo un po' alla vita dell'istituto così e alle manifestazioni. Ecco, Irene Grandi da Firenze nella sua veste meno conosciuta, quella lontana dalla musica. Una bambina vivace, come direbbe qualcuno, ma a quell'età essere irrequieti non è certo un segno di distinzione. Tutti i ragazzini, chi più chi meno, sono vivaci. E Irene non fa eccezione. Se non fosse per un particolare, la materia che segue con maggiore interesse è religione. Sì, avete capito bene. Religione. Andavo bene a religione in realtà anche perché si parlava molto nelle lezioni di religione, era più un'ora dedicata al dialogo, al capire le idee diverse, a cercare di essere tolleranti. Così Irene Grandi, irruente ragazzina tutto pepe, quando esaurisce la batteria che ha in corpo, mette a ricaricare le pile durante l'ora di religione, imparando a parlare con gli altri, a scambiarsi idee e impressioni e a smussare gli angoli dei confini del suo mondo. Tutte cose interessanti, che fanno crescere. Ma la musica? Addirittura mi ricordo all'esame di liceo di maturità, che a tutti prima di fare l'esame chiedevano un po', no, cosa vuoi fare da grande? E io così non ce la feci, gli dissi la verità, insomma gli dissi volevo fare la cantante, anche sperando così che insomma, come dire, non mi facessero le domande proprio più difficili. Come dire, ci si aspetta di più da uno che vuole fare l'ingegnere o il letterato, insomma, no? Che sia la sua interrogazione sia ineccepibile. La mia era, diciamo, fantasiosa, sempre cercavo di trovare delle risposte carine, ma sicuramente ero una buona studentessa, ma non ottima. Ecco uno dei valori di Irene che abbiamo sempre apprezzato, l'onestà. La scuola c'è, fa parte del percorso, ma è chiaro che la testa è da un'altra parte. Irene è davanti a un microfono per la maggior parte del suo tempo libero, insieme ai gruppi con cui suona da ragazza. I Goppions, La Forma, Le Matte in Trasferta, tutte formazioni giovani e piene di ormoni, tutte occasioni per mettere a segno il proprio sogno, quello di cantare. Nelle Matte poi, insieme a Irene, c'è anche Simona Bencini, futura cantante dei Di Rotta su Cuba. Tanto per alzare il livello della competizione e spingersi a vicenda verso il successo come cantanti. Successo che per ora è un puntino che si vede solo in lontananza. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, un'altra abbronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra Bagnasciuga, già finita la sera dell'addio del ci sentiamo, pensa, ti chiamo, scrivimi, ricordo, ti prego, ti amo, sì. Siamo nel 1992 e Lorenzo canta l'estate in attesa di incrociare il destino di Irene, perché prima di lui c'è un altro magnifico incontro, un altro Lorenzo, quello da cui è partito tutto. Si tratta di Lorenzo Ternelli, Telonio per tutti, un chitarrista modenese trasferitosi a Firenze per studiare al conservatorio e nel frattempo ascoltare i Police, i Cream, Eugenio Finardi e Vasco. Lorenzo conosce Irene proprio nel momento in cui lei decide di abbandonare i gruppi per tentare la carriera solista. E al primo incontro ne segue un altro, e poi un altro ancora, in cui si suona, si parla, ci si scambia idee, un po' come l'ora di religione. È un terreno familiare per Irene. Succede tutto lì, a Firenze, con la grande arte del passato che li circonda e fornisce loro ispirazione. Sono sempre rimasta molto legata a Firenze, ci sono nata. Gli anni della formazione, della scuola, quando si cresce, l'inizio della mia carriera musicale. Le premesse non potrebbero essere migliori con uno sfondo del genere. Passa un anno in cui Lorenzo e Irene lavorano insieme di giorno, ma soprattutto la sera e di notte, le ore migliori per entrambi. Provano e riprovano intensamente perché sanno di potercela fare. Insieme lavorano bene e soprattutto hanno tra le mani un pezzo che secondo loro funziona. Basta solo finire di arrangiarlo per bene. Mando una canzone d'amore, che d'amore non ha niente perché ho troppo sonno. E non il pezzo non è male in effetti, ha un buon ritmo e la voce di Irene sfoga tutte le sue qualità, da quelle più melodiche a quelle più rock e sensuali. Manca solo qualche dettaglio, una chitarra distorta e non classica, una batteria che entra al momento giusto e altre piccole aggiunte, poi il pezzo potrebbe andare. Detto fatto, le modifiche vengono applicate e il pezzo in effetti va. Mando una canzone senza la melodia, vuoi vedere che mi piace di più? La butto giù e poi la butto via ed alla fine non la mando più. Venere in bilancio, sai che allegria, promette una novità. L'oroscopo dice portate pazienza, piccole difficoltà. Un motivo maledetto è il classico singolo perfetto. Riesce a irrompere nelle radio e intrufolarsi nelle orecchie degli ascoltatori. Cattura l'attenzione dei discografici e da lì a un contratto il passo è breve. Arriva perfino a Sanremo Giovani, dove sbaraglia la concorrenza. E a coronamento del successo, nel giro di pochi mesi, viene girato anche il videoclip. Altro che motivo maledetto. Il pezzo scavalca trionfalmente il proprio senso letterale per diventare il trampolino di lancio della scatenata ragazza fiorentina. È difficile che una persona riesca a capire il nuovo, specialmente chi si occupa di comunicazione, chi si occupa, è molto difficile che riesca a capire il nuovo. Un artista che esce al primo disco, convince tutti, vuol dire che fa qualcosa che già assomiglia a tutto. Se c'è una cosa che Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti ha imparato a fare nel corso della sua carriera è prendersi dei rischi. È la caratteristica di chi si affida al proprio istinto, trascurando per quanto possibile tutti quei particolari tipici del mondo discografico, come le strategie di marketing, i numeri, le classifiche. Lorenzo si affida al suo istinto da musicista una sera, mentre è a casa a guardare la TV e sul video appare lei, Irene. Io ho visto lei dal tuo programma Roxy Bar. T'ho telefonato e ho detto: chi è quella lì? Mi piace, mi sembra brava. E allora quando l'ho vista a Sanremo io ho detto: Irene, ti vorrei scrivere una canzone. Ho scritto questo pezzo qua per lei, che comunque è molto brava. Secondo me Irene è molto brava e avrà un grande successo, più di adesso. Altro Lorenzo, altro magnifico destino. Nel 1994 tutto l'universo sembra stringersi intorno alla piccola cantante fiorentina. Esce il suo primo album dal titolo Irene Grandi ed è un successo. La sua musica porta allegria, ritmo e melodia. È una ventata di freschezza che inonda l'Italia. Io ti voglio bene, ma non so se mi conviene, perché c'ho un po' paura di soffrire. Potrei anche morire, allora non evitare di farci male. Sarebbe meglio forse lasciar stare. Giovanotti il suo dovere come magnifico destino lo compie alla perfezione. Confeziona per il primo album di Irene della musica tagliata apposta su di lei, come questa TVB, nella quale mischia con abilità le sue doti di scrittura e di rapper alle caratteristiche musicali della giovane ragazza emergente. Il risultato è una canzone divertente, orecchiabile, per nulla scontata, che si inserisce perfettamente nel repertorio della cantante. Un motivo valido per non limitare la collaborazione a questo album, ma proseguire e pensare ad altre cose più avanti. Tanto butto giù tequila boom boom, ma tu lo sai, capitano, che una sera sei fuori e la vita... Anche l'altro Lorenzo, il Ternelli, che tutti conoscono come Telonio, risponde con orgoglio alla sua chiamata di magnifico destino. Tutte quelle notti fiorentine che Irene ha passato insieme a lui a provare e riprovare melodie e approcci portano alla nascita di diversi brani che hanno tutte le carte in regola per diventare grandi successi. Come Fuori, la canzone che apre le porte del Festival di Sanremo alla scatenata ragazza fiorentina. Sanremo è un'emozione sempre viverla, lavorare con l'orchestra, essere lì con una canzone inedita, avere come confronto gli artisti comunque italiani, di solito anche molto importanti, insomma tutti, ecco. E poi devo dire una cosa molto bella è anche la partecipazione che trovo dal pubblico di casa. La stella di Irene Grandi appare nel firmamento a metà degli anni 90 e nel giro di poco tempo arriva a illuminare il cielo di una luce abbagliante. È un susseguirsi di brani indovinati e la ragazza di Firenze si inserisce nella scena musicale facendosi sempre più largo. Sul palco poi Irene è davvero scatenata. La sua energia nel cantare e ballare si trasmette al pubblico che comincia a seguirla con passione. Esce l'album In vacanza da una vita ed è la ciliegina sulla torta, grazie a tanti pezzi freschi e grintosi. Che cosa? Forse cerco qualcosa, qualcuno che mi porti via. Il salto nell'iperspazio delle grandi star nostrane viene aiutato da una serie di eventi ed esperienze che contribuiscono ad arricchire il fenomeno Irene Grandi, già abbondantemente sulla pista di lancio. Arriva infatti un tour in Germania e l'abitudine di andare all'estero, di esportare il proprio sound e la propria musica per aprirsi e guardare al mondo, sarà una costante nella carriera di Irene. Certe volte dare un messaggio attraverso la musica è come arrivare più velocemente, più diretti al cuore, rispetto che a darlo attraverso tante interviste, tanti personaggi politici o cose che ne parlano, insomma. L'incredibile escalation di Irene Grandi sembra conoscere però una pausa, che più dello stop ha il sapore della virata. Succede con la pubblicazione di Verde, Rosso e Blu, che esce nel 1999 e che rappresenta un po' la logica conclusione del percorso cominciato qualche anno prima e in cui si intravede già il futuro. Nel disco, infatti, oltre alle solite ballate scanzonate, trovano posto alcune inequivocabili tracce rock che presto entreranno a far parte del repertorio di Irene Grandi. Si tratta di una scelta voluta, naturalmente, che fa uscire allo scoperto quella parte più trasgressiva nascosta all'interno del minuto corpicino della cantante. E ci saranno delle conseguenze, non solo nel look, ma anche nella vita di Irene stessa. Sta per arrivare il Vate di Zocca. Lo sapete più o meno che ho questa specie di doppia personalità, che sì, posso fare anche l'angelo e lo so impersonare, però insomma mi piace anche quel piccante che dà sapore. Irene Grandi, un talento musicale scatenato che arriva da Firenze alle soglie del 2000 e nel pieno della sua raggiante felicità. Sembra davvero un angelo, anzi una fata, come quella che ha impersonificato nel film Il barbiere di Rio con Diego Abatantuono. E ha tutti i motivi per esserlo. Il sogno che confessava durante l'esame di maturità, quello di diventare una cantante, non solo si è avverato, ma sta andando anche oltre le migliori aspettative. C'è stato un Lorenzo di passaggio, quel giovanotti che è rimasto colpito da una sua esibizione in TV e ha deciso di realizzare un album con lei. E un Lorenzo che continua a starle a fianco, il chitarrista Atelonio, con cui ancora si diverte a pensare musica. Tutti e due hanno dato il loro contributo per rinsaldare le basi di questo destino. Terminata la fase di ascesa, ora è il momento di scoprire le altre carte. E Irene in tasca ha un jolly che non le manda a dire. E mi venga scottuto in faccia il mio passato musicale e artistico, sono ben contento. Ho detto, ma che mi venga scottuto in faccia il mio passato di quando dietro i camerini, che erano tre giorni che non dormivo, tu arrivavi con la telecamera e prendermi e mi rubavi le immagini, no? Certamente Vasco Rossi non ha bisogno di presentazioni. Sarebbe come introdurre Sua Maestà a un galà elencando le sue precedenti apparizioni. Inutile anche parlare delle sue canzoni, del suo pensiero. Sono anni che Vasco lo fa attraverso la sua musica, la sua vita, il suo sguardo. Eppure, nonostante la lunga militanza, non ha mai perso il potere di saper colpire nel segno. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Prendete questa canzone, per esempio. È incredibile pensare che una delle più belle canzoni che parlano della vita dal punto di vista di una donna l'abbia scritta un uomo. E di Mister Vasco Rossi, da Zocca, tutto rock e trasgressione e non certo femminismo. Eppure è così, segno che Vasco di donne se ne intende. E poi è un istintivo, uno a cui si illumina il viso a sentire una buona idea, parte, chissà dove arriva. Ecco allora spiegato perché una sera, dopo aver intrecciato il brano eccezionale, Vasco decide di prestare le sue sapienti mani a beneficio della nostra protagonista. Mi ha conosciuto attraverso la mia musica e le mie performance dal vivo e anche in televisione, così, e così naturalmente di getto gli è venuta questa idea di questo testo che parlava della stella più bella che c'è, insomma, non vedo altra cantante possa cantare una cosa del genere. Detto fatto, e in un attimo Vasco Rossi realizza un brano apposta per Irene, in cui mette mano anche l'immancabile braccio destro del Vate, Gaetano Curreri. È un brano forte, su questo non c'è dubbio. In realtà, insomma, a me è piaciuto subito il suo testo, perché me lo fece sentire un pomeriggio in uno stereo schifosissimo, mi ricordo, che la musica si sentiva un po' così così, però già le parole poi spiegate da lui con l'entusiasmo e l'enfasi che gli dava il fatto che ci credeva molto in questo progetto, mi conquistarono immediatamente e quindi decisi di festeggiare con Vasco. Mi ricordo già il primo giorno, appena avevo sentito la canzone, si aprì una bottiglia di champagne, insomma, mi sembra il minimo visto appunto il mio interlocutore. In effetti tutto si può dire tranne che si sia trattato di una scelta azzardata. Irene prende il pacco consegnatole dal Vate e si presenta a Sanremo. È un trionfo. Per la cronaca, nella gara, Irene finisce seconda, dietro alla piccola orchestra degli Avion Travel. Ma questo è solo un dettaglio. Credi ma non sai cosa è veramente importante. Sei sicuro che... sicuro, ma ci pensi sempre. L'inizio del nuovo millennio per Irene ha le tinte forti e decise del rock, e non solo grazie all'impareggiabile contributo di Vasco Rossi. È una decisione metabolizzata e pensata, fortemente voluta, a cui partecipano in ordine sparso il look, la band e persino il fidatissimo Telonio, che fa scivolare fuori le ultime gocce di sudore prima di chiudere la collaborazione decennale con la cantante. È una parentesi quella rock che si apre senza mai veramente chiudersi, nonostante qualche inevitabile aggiustamento di rotta. L'indole rockettara, trasgressiva, un po' dannata, non piomba addosso a Irene Grandi da chissà quale pianeta, ma le viene da dentro, dove albergava in attesa di poter finalmente venire alla luce. Prima di partire per un lungo viaggio è un album che contiene in sé i germi di quell'esperimento rock che vedrà la luce in Indelebile, album del 2005, che segna la svolta musicale di Irene Grandi. Un disco fortemente voluto questo, che chiude in qualche modo un'epoca e mette un punto sui dubbi che qualcuno poteva avere sulle qualità di questa ragazza. In realtà questo disco l'abbiamo proprio scelto di farlo con pochi strumenti, magari anche degli arrangiamenti semplici, tutto sommato diretti, magari rafforzati da delle sovrapposizioni di strumenti. Il tempo che se ne va, come una goccia nel mare, cos'è? Il tempo è una persona che incontri e che non rivedrai mai. E l'ondata di rock puro di Irene si esaurisce, ma la ragazza naturalmente non si ferma, anzi, spinta dalla carica della sua musica, ne approfitta per pubblicare un disco live e fare qualche collaborazione, un vecchio vizietto che non perderà mai. Il successo e la voglia di continuare a mettersi in gioco sono anche la spinta per dare forma a uno dei vecchi sogni di Irene, quello di andare in giro per terre lontane o poco conosciute e contribuire nel suo piccolo allo sviluppo e alla sensibilizzazione di alcune realtà tramite concerti, esibizioni di beneficenza, raccolte di fondi. È uno dei grandi poteri della musica, quello di avvicinare le persone, e Irene con la gente si è sempre trovata bene. Mi piace, poi effettivamente sono un animale sociale, io, a me piace lavorare insieme agli altri, difficilmente mi trovo da sola a fare le cose, è una dimensione in cui mi trovo molto bene, credo molto nello staff anche per lo sviluppo di della creatività e anche perché magari tante persone, una sa fare bene una cosa, una un'altra. Se ci si trova bene insieme si raggiungono risultati. Con un tipetto così, sempre pronto a condividere e a coinvolgere, è impossibile pensare che i magnifici destini siano esauriti. E così non è, infatti. Dietro il sipario, in attesa di dare il suo personale contributo, c'è un personaggio dalle mille sfaccettature. Si chiama Francesco Bianconi e di mestiere fa il frontman dei Baustelle, lo scrittore e mille altre cose. E se gli chiedete di parlare del mondo, lui non si tirerà assolutamente indietro. Io credo che ci sia uno spiraglio di speranza, te lo dico da Francesco Bianconi fuori dal romanzo, non mi sento di essere pessimista, bisogna cercare la speranza anche in mezzo allo sporco e all'apparente contaminazione. La mia visione è di una società molto contaminata e molto in apparenza senza speranza, però bisogna cercare di trovarla. La cosa che si salva, ecco, secondo me è il coraggio di tante persone, la fede. Era inevitabile. Da un lato Irene, con il suo continuo girovagare fisico e musicale, che riflette il suo essere sempre un po' in trasformazione. Dall'altro Francesco, con le sue sperimentazioni, le sue riflessioni e quella capacità di andare a fondo alle cose. L'attitudine a mischiare, poi, è competenza di entrambi. E allora, che inevitabile sia. I Magnifici Destini oggi sta inseguendo la scatenata Irene Grandi, artista dal duplice volto, un po' melodia e un po' rock. È una doppia veste che la cantante ha dovuto imparare a indossare nel corso degli anni per permettere a tutta la sua creatività di uscire. Ma sarebbe riduttivo in un certo senso ingabbiare la sua indole in due grandi insiemi, perché rock e melodia sono sì i due riferimenti musicali di Irene, ma questo non le ha impedito di attingere qua e là nel restante spettro delle possibilità. È in questo modo che nasce la collaborazione con l'ultimo magnifico di oggi, quel Francesco Bianconi, anima e voce dei Baustelle, uno dei gruppi più atipici del nostro panorama musicale. Un'idea che a lei è subito piaciuta. È nata un po' dalla mia manager Francesca Pellegrini, che lo conosceva personalmente, e lei le piaceva molto il loro disco, ma anche a me, però è stata lei che ha visto, secondo, non so, qualcosa che secondo la sua sensibilità poteva unire la nostra musica. Conoscendolo personalmente è stato un attimo, insomma, provare a chiedergli. Effettivamente dopo 4 giorni mi sono arrivati 3 brani, tra cui appunto Bruci la città, che, di cui mi sono innamorata immediatamente per l'ironia, per la bellezza della melodia, per il testo così poetico in certi momenti. Ironia, contenuto, melodia. C'è un sacco di roba che attira l'attenzione di Irene, roba di qualità. Complimento migliore non poteva farlo a Francesco. Lui che dopo anni di demo, insieme ai suoi Baustelle, ha sfondato con un album dal titolo Sussidiario illustrato della giovinezza, in cui si misura con i generi più vari e disparati. Dalla canzone d'autore all'elettronica, dalla new wave alle colonne sonore degli anni 60 e 70, dalla Francia al Brasile. E poi il brano Bruci la città ha qualcosa di speciale, qualcosa che a Irene piace molto. Mi sembrava che unificasse un po' quasi tutte le mie canzoni, no? Che c'aveva un po' tanti elementi che assomigliavano a qualcosa che avevo fatto, ma ancora in un modo nuovo. Bruci la città. Uno strano destino, quello di Bruci la città. Viene scartato dal Festival di Sanremo per poi rifarsi ampiamente con pubblico e critica, scalando le classifiche e conquistando gli ascoltatori. Ma poco importa. L'importante è avere trovato un altro magnifico da tenersi stretto. La collaborazione con Francesco Bianconi, infatti, proseguirà per Irene. Un'Irene che è in piena fase di maturazione, un po' più riflessiva, un po' più attenta a quello che le succede attorno e sempre pronta a trovare nuovi spunti. È una grande soddisfazione quando ci sa un album nuovo, un progetto nuovo da raccontare. Noi siamo ancora più entusiasti del nostro lavoro, perché comunque tutte le volte che nasce una nuova creatura, noi è quella che amiamo di più. Sì. E quindi, perché ci sentiamo cresciuti, perché ci sentiamo in questo momento, no? Certo. Ti riflette anche la tua vita, esatto. La tua personalità. E ora un tempo ridevi e mostrandomi il cielo. Nel 2010 è uscito l'album Alle porte dei sogni, trascinato dal singolo La cometa di Halley. È un'Irene un po' diversa, quella che traspare da questo lavoro. Un'Irene che si pone domande importanti e contemporaneamente affronta il quotidiano, più riflessiva. Francesco Bianconi è ancora lì a dare il suo contributo, come piace a lei. E la sua doppia anima non è sparita, tutt'altro. È solo costretta a seguire la scia. Ma in questo periodo mi sento molto riempita dalla creatività, dalla bellezza del pensiero quando è creativo, della musica quando la senti, quindi sono molto contenta della mia crescita artistica, e in questo momento mi basta, e anzi mi dà la carica per comunque essere anche affascinante, magari proprio in questo momento trovare una persona che mi possa davvero essere vicina. Uno dei segreti di Irene è senza dubbio la semplicità, una qualità che ce la avvicina, fino quasi ad averla a tiro per un abbraccio, che sia al termine di una sua scatenata esibizione live o alla conclusione di una bella chiacchierata. La sua semplicità si sposa con la continua ricerca di stimoli. La ragazza, infatti, a stare ferma proprio non ci riesce, è sempre alla ricerca di gente, idee nuove. come quella di fare un concerto su Second Life, la piattaforma delle vite virtuali su internet, oppure come quella di affiancare il cantante senegalese Youssou N'Dour e altri artisti internazionali per un grande concerto di solidarietà, oppure ancora cantare un disco intero di canzoni di Natale. Il Natale è effettivamente un momento in cui è un invito all'introspezione, al ritrovarsi con le persone care, quindi anche a raccontarci delle storie, la nostra vita, i nostri sogni. E in un momento appunto di aspirazioni per il mondo, di sensibilità da parte di un po' di tutti, di voler cambiare, di voler portare il proprio apporto a un cambiamento, mi sembrava che forse il Natale potesse essere un punto di partenza. E allora ho deciso di iniziare a cercare le canzoni di Natale. Quando ho cominciato mi si è aperto veramente un mondo, perché c'è tantissimo materiale. Bianco tu. Tenendo fede alla sua indole sperimentatrice, recentemente Irene ha registrato un album insieme a Stefano Bollani, il celebre dinamico pianista con la passione per il jazz. Un album di classici rivisti e rivisitati, una collaborazione che non cade dal cielo, ma è frutto di una lunga conoscenza. I due infatti suonavano insieme nei La Forma, uno dei gruppi giovanili in cui Irene militava. In fondo Irene è ancora la ragazza di Firenze, sempre disponibile a fare una chiacchierata e a scoprire nuove idee sul mondo e sulla musica. A me mi piace il blues e tutto il giorno già cantare, perché sono stata zitta e un momento a me sfugà. Sono volgare e so che nella vita suonerò per chi te ne complessi e non ne vuoi. A me mi piace il zucchero che scende nel tuo caffè e con una presa d'annunzio.